Ma ogni tanto anche il mio lo fa, ci mette 10 secondi. Chiappa. E ancora sta aggiornando. Per farli rifare anche, perché vuol dire che si rifà, vuol dire che ne ha bisogno. E' meglio che sia aggiornato. Anche con gli antivirus, con questo qua. Aggiornamento automatico c'è anche il tuo. Chiappa. Già va bene, dai, che lo faccio ogni tanto. Prima io facevo anche la pulizia, ma non ne sono più freddo. Ma adesso faccio tutto quanto automaticamente. Ma è giusto però che lo faccia. Vabbè. Dai, siamo onesti, tu ti decidi che apri, no, anche se tu puoi ricancelli e cose, rimangono sempre meno nel fondo del computer. E fa poi cancella. E rimangono sempre nel fondo, quindi vuole fare la pulizia ogni, che ti posso dire, 2-3 volte alla settimana. Va bene, dai, 2 volte. La regola, se no poi te ne trovi migliaia di siti. Quindi via. Stai facendo un parcento, le tante parte. Non ho mai già girato il guglione, insomma. E lo sai, io devi scendere da voi. E a quanto devi fare arrivare? E a quanto arriva? Sì, allora è lunga, eh. Come non usarlo, è buono lasciarlo così, sino quando la finisce. Hai il studio, una passaggio, devo andare all'indomani. E chi lo deve misurare? Non si è acceso. E te l'ho fatto tutto quando ho detto che stasera ce l'ha già fatta. No, non posso lasciarlo così. No, cosa? Cosa? Adesso vado qua perché sono qua, adesso mi sto preparando e vado giù, dai, riprendo da giù un attimino di preparazione che vado da giù, dai. Ehi, ciao. Sentiamo o chiudi, poi cosa devo fare aggiunto? No, già siamo qua, sono qua solo. Gava. Avanti su 10 se c'è qualcuno. Avanti popolo, ora ho riscosso. Eccomi. Tony. Ciao Pierolino. Questo è bombolo, a me fotti. Ovviamente non so che di modo di fare un po' diverso. Se uno ti conosce, se ne rende conto. Ma che è? Chi è? Questo è Pierpaolo. Comunque si assomiglia un bella voce. Donietto Antonietto, ti sei preparato? Noia. Come è andata questa giornata fredda oggi? Era tutta quanta fredda, ghiacciata. Mi ha ghiacciato anche il pezzo. Sai che in macchina mi segnava il simbolo della neve? C'era la neve. Quel freddo era di neve proprio. E che chissà che uno di questi giorni ci alziamo con la neve a Sassi. Oh no, è finita la neve. Domani iniziamo 38 gradi. Spacca anche quasi uccellini in cambio. Beh, duro. Senti i figli di Barani a vero. Bellissimo, così ci andiamo tutti al mare e siamo con le maniche corte, finalmente giubbotto abbandonato, cambie. Siamo liberi di sera a volare, questi giubbotti dati un po' di fastidio. Così la sera si può anche uscire. Bello. Andare di notte a pescare. mare, sabato. Si può andare da tutte le parti, con il caldo si può andare. Pensa che a volte noi passavamo tutta la notte, l'estate, e non c'era un filo di vento, nulla, un caldo aggrebato. Si stava benissimo. Poi la mattina presto, però verso le 5 cominciava il rintoio. Vero, vero, anche quello, il momento del rintone, bello. Ero coperto bene, non è che c'avevo due paio di pantaloni, due, tre paio. Si cagineva, poi mi faceva da volo. Qualsiasi cosa, insomma, bene, tranne che il freddo, basta. Però bene, siamo stufi di acqua e di freddo. Soprattutto dell'acqua. Ne abbiamo abbastanza. Che campagnoli soffra si vede, perché dice che allaga tanto e fa casino, invece di fare bene fa male. Cava, cava, glielo credo. Adesso basta, adesso ci vorrebbe, non dico caldo, adesso ci vorrebbe quelle giornatine, quelle, come si chiama, di primavera, un pochettino soleggiate, un pochettino soleggiate, che fa bene anche alle ossa, capito? Forse le scampagnate. Anche quelle quando c'è bel tempo. Ehi, ma tu a me non mai compreso, il tempo è vecchio, ma il tempo da voi fare le scampagnate c'è sempre il tempo, prima che vengano per ogni giorno così. Ehi, ehi, già verrà, prima o poi dovrò fare l'estate o no? No, prima o poi, ma già rompendo io, il cazzo di leva, avare ma sia. L'abbiamo visto all'orizzonte, alle 6:30, abbiamo visto il cielo, chiuso anche lei, nero, nero. Agitato, sentito che ho tempo di temi sardazzini. Siamo andati a bere la macchina, quando siamo arrivati poi, ho detto, no, poi non arriviamo a casa, senza vaiva. E così è fatto, come sono uscito, arrivo. Piazza dopo piazza del Segni, ecco l'acqua. Era lì infatti l'offo. Vabbè, tempo suio, vabbè che adesso è anche troppo, Tra poco c'è in primavera, ne ha fatto abbastanza adesso, un po' di sole. Cosa vuoi fare? Il tempo sta cambiando, e poco di nuovo, come passa la stagione, allora di colpo, senza manco accorgere, per dire passa l'inverno, la primavera, la metà stagione per le birre. E infatti non è quello che fa male, cioè io non dico tutto, però questa alla fine ti ricordi che qualche volta sono ricordo lontani. Anche a fine gennaio quelle giornatine di sole soleggiate così non ha fatto niente. Febbraio quel tempone delle giornate soleggiate non ha fatto. E maggio sarebbe quello che sia un po' randaggio come cosa, però non ha fatto nulla, ecco. Da voi appunto chissà che passa. Oh, dono troppo caglio, le botto, e comincia caglio. Che è quello che fa più male, capito? Vabbè, mi impatto troppo del freddo che ti frega. Anche perché non segue una stagionalità che piano piano, qualche giornata soleggiata, così magari di marzo pure come facevo una volta, perché marzo pure non è più così, infatti, perché si c'è un po' sotto sopra, sotto ombrello. Anche magari qualche giornatina di così, tempia tempia va via, ma invece non è valuta, cazzo è che o sembra il gelo, e magari a voi cazzo il fuoco è poi totalmente caldo, e si fa di male. Allora, chissà che cambia questo cavolo di tempo. E che cambia?